Malinche, la voce dell'acqua, di Laura Esquivel. Come per l'altro romanzo di Laura Esquivel da noi registrato, come l'acqua per il cioccolato, anche per questo abbiamo scelto di tenere il titolo originale Malinche unito a quello italiano, La voce dell'acqua. Questo perché ancora una volta il titolo italiano risulta fuorviante rispetto al contenuto dell'opera che tratta la vita di Malinche, colei che fu prima schiava, poi compagna e interprete di Cortés nella conquista dell'America meridionale da parte degli spagnoli. Malinche è una fanciulla della nobiltà azteca che per cause legate alla primogenitura viene regalata dalla madre a un padrone affinché esca dalla linea ereditaria. Ma Malinche è una donna intelligente, con una sua visione, tanto che da schiava diventerà il braccio destro di Cortés. In Sud America la considerano da sempre una traditrice, ma ella aveva delle motivazioni che la portarono ad agire apparentemente contro il suo popolo. E sono queste che ha voluto indagare Laura Esquivel nello scrivere il racconto della sua breve vita, avendo in parte, diciamo, ricevuto informazioni per via sottile, tra virgolette, quasi come se avesse potuto incontrare la giovane e sapere direttamente da lei, di prima mano, come andarono le cose. Scrive infatti la stessa autrice, nei ringraziamenti, nell'aria, nell'invisibile, naviga un'infinità di idee in movimento che si incrociano le une con le altre, producendo incontri luminosi, che più tardi si plasmano in immagini, suoni, parole, in conoscenza. Questo libro è il risultato della mia ricerca di risposte alle domande: com'era Malinche, cosa pensava, cosa sapeva, quali idee l'accompagnavano. Risposte che ho trovato non solo nei libri di storia, ma anche in conversazioni con i miei amici e nel mio personale contatto con l'invisibile, dove il tempo svanisce ed è possibile avere fortunati incontri con il passato. Che le donne usino il canale spirituale come fonte di informazione per collegarsi direttamente alle antenate è un fatto assodato. L'ho dichiarato io stessa nel raccontarle nel mio romanzo Antenate, la visione delle donne, o nel riproporre la storia di Anita Garibaldi, dove ho recuperato la versione femminina delle vite delle venerabili donne che la storia ufficiale patriarcale ha alterato. Lo dichiara per esempio Aline Quinet nell'introduzione al suo romanzo La notte delle beghine, che racconta la vita delle comunità femminili laiche medievali definite beguinage. Scrive Aline Quinet: "Per anni, percorrendo su e giù le viuzze del quartiere parigino del Marais, dove le beghine avevano la loro casa, ho cercato le loro tracce. Giorno dopo giorno quelle donne mi sono venute incontro, ombre forti e leggere. Ho sentito le loro risa, i loro canti, il rumore dei loro passi sul selciato. Abbiamo sognato, tremato, camminato fianco a fianco come compagne separate dal tempo, ma riunite in una stessa eco lontana." Lo suggerisce anche Dacia Maraini nel presentare il suo romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa, che racconta la vita della sua antenata siciliana, indagando cause e azioni che la storia patriarcale ignora o riporta alterandole, perché solo le donne possono contattare e raccontare altre donne senza travisarle. E anche la versione di Laura Esquivel differisce da quella ufficiale patriarcale in due aspetti importantissimi. Il primo: Malinche aiutò gli spagnoli non per tradire il suo popolo, bensì perché era convinta che il cristianesimo avrebbe posto fine ai numerosi e cruenti sacrifici umani praticati dagli aztechi. Naturalmente poi si disilluse quando assistette alle carneficine perpetrate anche dagli spagnoli, il che ci porta al secondo aspetto. Laura Esquivel sostiene che Malinche non morì assassinata da Cortés né di malattia, bensì per sua volontà si lasciò assorbire dalla dea madre e si dissolse negli elementi, come in una sorta di ascensione che risuona molto con l'annichilamento teorizzato dalla beghina europea Margherita Porete, bruciata come eretica, di cui racconta proprio il romanzo di Aline Quinet, di cui è disponibile un nostro video documentario e che in questo modo chiude il cerchio. Il fattore risonanza risvegliato da Malinche è difatti molto esteso. Si pensi che l'immagine qui usata è tratta da un mural di Diego Rivera, marito della pittrice Frida Kahlo, icona femminile del Messico, proprio come Malinche, come se le due donne fossero due facce della stessa medaglia, o il punto d'inizio e quello finale della storia del Messico. Tornando a Malinche e al romanzo di Laura Esquivel, mai come in quest'opera l'autrice ha lasciata libera la sua visione spirituale, magica e sciamanica. Ogni capitolo è un trattato di conoscenze e ritualità nativa che chiarisce al meglio ciò che pensò e fece Malinche e perché. Basti citarne un breve passaggio. L'esperienza le aveva insegnato che il camminare rituale produce davvero un distacco dal corpo, un'elevazione spirituale, un'integrazione col tutto. Ciò avviene quando si vince il corpo, quando lo si sconfigge, quando la carne rinuncia a contenere colei che cammina e la lascia libera di fondersi con il nulla in cui tutto è presente. Ecco, questa è ciò che la storia degli uomini ha definito morte, tra virgolette. Questo romanzo storico-magico è la versione femminile della storia di Malinche, che tiene conto dell'enorme bagaglio spirituale e simbolico completamente ignorato dalla storia ufficiale materialista e superficiale. La scuola delle donne è lieta di presentare Malinche, la voce dell'acqua, edito da Garzanti, tradotto da Stefania Cherchi e letto per la scuola da Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, buon ascolto.